poteva un po' vedere come potevano essere collegati in una rete wireless e quali erano i possibili problemi che venivano fuori. Giusto per rendere un po' dinamica la cosa, se venivano fuori delle domande. Così. Questa me la sono sognata di notte, quindi può darsi che i dati non siano proprio perfetti, però insomma. Immaginiamo di avere 7 siti da collegare, distanza 5-6 km, quindi non è che sono lontanissimi, un ponte radio ci arriva. Queste sedi, facciamo finta che non abbiano internet a banda larga, ne hanno bisogno, e per qualche strano motivo l'amministrazione pensa che col wireless si possano ridurre le spese. Cosa fa? Va a chiedere a un ingegnere delle telecomunicazioni di fargli un progetto per collegare queste tre cose, queste sedi. Facendo finta che abbiano un po' di soldi da buttare via, le banche decidono di investire in questa idea. Questo è il quadro in cui vorrei cominciare a spiegare un po' la dinamica di come si costruisce una rete wireless, in modo da capire insomma come funziona e da dove viene fuori. Se ci sono punti oscuri, ripeto, non sono professore, non do voti, non chiedete. E qui adesso arriva la parte un po' più tecnica della rete. C'erano vari modi che potevo usare per descrivervi tutto il processo. E quello più semplice è quello di prendere il sistema standard per la descrizione di una rete, che sono i 7 livelli, i physical link come si dice. Si parte dal livello fisico, che è quello verde più scuro in basso, che è il cavo, rame, si può scegliere quello che si può, rame, fibra, radio, quello che si può. Il layer del data link, che fondamentalmente definisce, istruisce i vari parti che sono attaccate via radio o via cavo rame, dove devono spedire il segnale elettrico e viene identificato dal MAC address. Se qualcuno ha un portatile, vedrà che la sua scheda di rete ha un MAC address. Quello serve per spiegare l'impulso elettrico che parte dal tuo PC, a quale PC è destinato o quale apparato è destinato. E dopo c'è il network layer, qui si parla dell'indirizzo IP. Vabbè, l'indirizzo IP è quello che si configura praticamente sull'interfaccia di rete del PC. Buonasera. Già spiegare questi primi tre per me è stata una tragedia metterla in slide. Gli altri penso che potrebbero essere per prossime serate a tema, per chi è interessato a descrivere tutto quello che riguarda il protocollo TCP, oppure session, presentation, application, tutto quello che riguarda il PC praticamente, le applicazioni piuttosto che i login e tutte quelle cose. Ecco, va bene. Tanto per spiegarci un pochettino, è la stessa cosa di prima, la stessa pila. Mezzo fisico, quindi il rame, fibra, ponti radio. L'indirizzo fisico, che è il MAC address, e il network, gli indirizzi IP, e qui aggiungo una cosa in più, il percorso che il nostro pacchetto, perché a questo punto si ragiona di pacchetto dati, deve fare per arrivare dal nostro PC al server o a dove deve destinare il pacchetto e le informazioni. È abbastanza chiaro? Un'idea? Pressa poco? Sì? Ecco, un po' di notazioni. Quando sentiamo parlare di hub, che sono delle scatoline dove si attaccano i cavetti, si parla di livello 1. L'impulso elettrico entra in una porta e pari pari viene rilanciato su un'altra porta. Non fa nulla di più un hub. Si parla di impulso elettrico e basta. Gli switch lavorano sul data link. L'impulso elettrico entra, però c'è anche un'informazione in più, che è a chi devo mandarlo. Lo switch vede quali apparecchiature sono attaccate sulle sue porte e cerca quella con lo stesso MAC address a cui è destinato il pacchetto. Cos'è l'LLC? È un'altra definizione, equivalente di MAC, quindi un'altra tecnologia. Differenza tra hub e switch? Sì. Pratica, perché... Questo è uno switch, però ho avuto anche un hub. Sì, quindi... L'hub riguarda solo gli impulsi elettrici, non fa distinzione di MAC. Io collego alla porta USB il computer. Tu hai un hub, una, no USB, hub, con quattro porte. sì. Le colleghi tutte e quattro, un pulso arriva su una, viene rilanciato su tutti e quattro. Quelle porte vanno dove? Ad altri apparati, a altri seminali, a altri... E lo switch dovrebbe fare se senti la cosa? No, perché? Volendo sì. Allora, diciamo che è un miglioramento rispetto a un semplice hub, perché ipotizziamo che io ho quattro portatili, io devo spedire un'informazione ad un unico portatile. Okay. Uno solo portatile. Uno da uno. Uno a uno. Io spedisco la mia informazione, il mio PC avrà un MAC address che finisce con... Facciamo così, i quattro PC collegati hanno un MAC address che finisce con 01, 02, 03, 04. Per semplificare. Il mio MAC address ha il MAC address che finisce con 01, lo voglio spedire al PC col MAC address 02. Nell'informazione che viene spedita dal PC è contenuto questo dato. Lo switch recupera questo dato e lo spedisce unicamente al PC interessato. Questo è un po' chiaro? È un miglioramento rispetto all'hub. Fai meno traffico, fai meno casino. Anche più sicura di te. Più sicura sì. Infatti, ricordiamoci che ogni, per esempio, uno switch che lavora a livello 2 bisogna sempre passare per il livello 1. Quindi la comunicazione nel nostro caso sarà dal nostro PC, tagliamo gli altri livelli, si parte dal livello 2, passa al livello 1, passa fisicamente, che sarebbe un livello 1 unico, all'altra porta, torna al livello 2 e quindi arriva al secondo PC. I router, che sono una cosa ancora più complessa, lavorano a livello 3, ragionano con indirizzi IP e reti, ed è quello che ti permette di fare anche il routing, gestione del traffico di rete, per capirci, firewalling mi sembra su indirizzi IP e quindi addirittura un'implementazione. Però è un sistema che ha il nostro pacchetto che parte dal livello 3 del router, va a livello 2, va a livello 1, torna a livello 1 dall'altra parte, va a livello 2 e va a livello 3. Questo per dirvi cosa? Che più router mettiamo, più ritardi abbiamo sulla nostra rete. Più hub mettiamo, meno ritardi ci sono perché il passaggio è immediato. E questo per un amministratore di rete è importante perché per reti complessi più ritardi mettiamo in una rete, più le applicazioni sono lente, più la rete funziona male, più è anche difficile garantire la sicurezza e in caso di emergenza una gestione del routing di quali soccorsi fanno un po' più efficace. Per capirci, se noi siamo qui in questa sede e dobbiamo prendere due uscite, questa uscita o quella in fondo di là, il routing mi dice guarda che l'uscita migliore è questa qui. Se io non avessi questa cosa, ma usassi solo lo switch, la prima che trova, che sia più lunga, più corta, che sia più sicura, meno sicura, non importa. Il routing è questo miglioramento. Diciamo che solo per parlare di routing, switch e queste cose servirebbe una lezione per conto suo, quindi non vorrei soffermarmi più di tanto. Il famoso cavo giallo. Sì. Sarebbe una specie di hub. Il cavo giallo qual è? È quello tipico dell'internet, quello che veniva vampirizzato per fare i vari attacchi. Non ho presente. Ai primosi, oltre che viaggiare. Il cavo coassiale? Ma cos'era un coassiale? Sì, è un coassiale. Quello che c'è una spina grande così? Il T3? Quello che aveva le prese T3? No, è il più grosso. No. Io l'ho letto, ma non l'ho mai visto fisicamente il cavo coassiale. Non l'ho presente, sinceramente. Scusa, si abitava con le vitrine, probabilmente. Il T3? Il T3, sì. Ma era quello che faceva degli anelli, se non mi ricordo male, no, cioè che tu dovevi chiudere l'anello, no? Sì, sì, era quello. Mettevi l'anello, mettevi il terminatore. Esatto. Se c'era un anello non era terminatore. No, o mettevi uno o mettevi l'altro. Eccolo lì, sì. Sì, questo modello è applicabile in qualsiasi caso, perché è pensato per lavorare a strati. Se io allo strato 1 ci metto il cavo di rame, la fibra ottica, i ponti radio, funziona benissimo lo stesso. Livello 2 posso usare il MAC address o l'LLC, è intercambiabile. Il livello 3 posso usare l'IP oppure che altre tecnologie c'erano una volta. Adesso non mi ricordo, se una volta il protocollo TCP IP che di solito vengono accoppiati, che è il livello 3 e 4, per capirci già lì in mezzo, si possono sostituire. È stato proprio per essere interscambiabile tra i livelli. ed è per quello. Ecco, va bene, io questa la riporto sempre, perché quando si comincia un progetto, no? E magari ti dicono bisogna infrastrutturare una rete wireless. Allora, di solito il progetto ha varie fasi, passano anche tramite la disperazione e la disfatta, no? Questo riassume abbastanza bene. Dov'è la disfatta? La disfatta penso che sia la corda dell'inficcato, che non ho riportato. Ciao. La cosa più bella è quella del commerciale, quella che viene venduta al cliente, mi fa morire ogni volta. Le persone poco corrette però. La persona poco corretta. No, ma dal commerciale. Sono commerciali, non mica detto che sono project manager, attenzione qui. E non mi hai detto che sono tecnici. Allora, che cosa ci serve per pensare? Qui cominciamo già a buttare un po' di basi sulla tecnologia wireless. Wireless funziona senza cavi e funziona a una certa frequenza, che è 5 GHz. Senza cavi significa che noi dobbiamo sapere dove sono geograficamente le sedi. Se ci abbiamo di mezzo un palazzo, non si fa niente. Quali servizi devono transitare sul collegamento? Io prima ho fatto la battutina sul VoIP. Il VoIP sarebbe la voce over IP. Il problema della voce è che dal punto di vista informatico servirebbero i pacchetti UDP, quelli senza richiesta di verifica che il pacchetto sia arrivato, perché altrimenti la voce è scattosa. La voce, una telefonata, è un flusso continuo. Il TCP/IP è un flusso di dati a pacchetti. Tecnologia wireless può avere parecchi disturbi. Questo significa che molti pacchetti, una parte dei pacchetti può essere persa. Che significa che se noi facciamo una telefonata VoIP sui ponti wireless possiamo sentire la gente balbettare. Questo per capirci. Quindi la scelta dei servizi da far correre su una rete wireless è fondamentale. La qualità del progetto, come ho detto, la rete wireless è una cosa bellissima ma delicata. Ricordiamoci che sono apparecchiature che stanno fuori, fulmini, tempesta, grandine, sole cocente, 40 gradi, se li becca tutti. Ragazzi di 15 anni. Sì, anche. Che fanno mondo. Ragazzi di 15 anni? Io ti dico solo che un impianto di videosorveglianza su rete wireless, abbiamo scoperto che una videocamera non funzionava perché qualcuno si è divertito con una balestra a centrare sia l'antenna che la videocamera. Questo tanto per capire. Hai capito l'età della freccia, vero? Sì, esatto. Bellissimo, lo vedete? Proprio piantata sul cupolino della videocamera. E quali apparati usare per collegare le sedi? Ci sono le Ferrari e ci sono le 500 anche nel campo wireless. I prezzi sono equivalenti come differenza, eh? Tanto giusto per capire. Ci sono gli apparati che costano tanto e durano abbastanza, ci sono gli apparati che costano niente e tieni sul muro però c'è pari schiena, insomma, ecco, per capirci. Va bene, io ho preso la distribuzione più semplice che mi è venuta in mente per pensare a queste povere filiali. Tutte in linea, tutte semplici, geometricamente proprio. L'ipotesi che faccio è che tutte le filiali abbiano la stessa importanza, stesso numero di dipendenti, stessi PC, stesse esigenze, perché così è tutto più facile. Adesso facciamo uno di quegli esercizi di logica che io non riesco mai a fare, però sono sicuro che tra tutti quanti riusciamo a fare tutti. Quante linee bisogna tracciare per collegare ogni sede alle altre? 6... per 7 a 36 più 6 più 40 io 21. Io speravo di perdere un po' di tempo qui di guadagnare un po' di... Cosa hai fatto caccia? 6 per 6 più 6 diviso 2 sono 7. Sono 7? Sono 7, c'hai un meno 1 che sei dimenticato. Meno 1, si scusa, sono meno 1. Quindi 7 per 7? No, 6 per 6 più 6 diviso 2, però bisogna togliere un meno 1 alla cosa perché tu non ti colletti con te stesso. Ecco. Non gli voglio così male. Dai. Io cosa inquadra subito quando avevo visto fuori, era una cina. Ecco, se noi volessimo che ognuna di quelle filiali fosse collegata con una delle altre per garantire la massima ridondanza, in modo che tutti si parli.